La religione dei Germani. Le tre Norne, le vecchie sagge fate germaniche, affondano le loro radici nella profonda antichità. Talvolta compaiono sotto forma di tre possenti donne, emergono dalla fonte nei pressi dell'albero cosmico Yggdrasil. Di là giungono tre donne, dice la profezia della veggente, di grande sapienza. Scolpiscono le pietre, determinano i destini dei figli degli uomini, la lunghezza delle loro vite. Perfino le divinità Asi temevano questa dea tripla germanica ereditata dall'Europa antica. Il potere delle donne calpestava le decisioni degli dei Asi, gli dei più potenti. Più tardi, queste tre Norne vennero chiamate Urd, Vertandi e Skuld. Urd significa fato o destino, Vertandi indica il mutare, il divenire, e Skuld significa dovere, obbligo o debito. Ai tempi di Snorri Sturluson, il grande poeta scandinavo, la popolazione credeva fermamente che queste tre dee rappresentassero le tre fondamentali forze che determinavano la vita umana. La più rinomata tra le dee era Freya, colei che dà ogni cosa, colei che dà nuova vita in primavera. Il cuculo, il messaggero della primavera, era l'animale sacro a Freya. Lei è una Etrina, inseparabile dalle Norne, le donne soprannaturali, tessitrici del fato. Le tre signore sedute su tre sedie che determinano il destino del bambino appena nato. Accanto alle sue virtù vivificatrici e al suo ruolo di colei che apre l'utero, Freya vigila sulla sessualità dei giovani e protegge le ragazze da marito. Non meno importante è il fatto che i poteri di Freya si estendano al mondo della morte e della magia. Il cinghiale, per esempio, è un suo animale specifico. Narra la leggenda che Freya fu la prima a insegnare la stregoneria agli Asi. Lo sciamanismo di Odin molto probabilmente derivava da quello di Freya. Freya era evidentemente una dea dell'intero ciclo della vita. Le sue controparti di altre zone dell'Europa indoeuropea di solito erano costituite da una coppia di dee oppure da una dea dal doppio nome, come la greca Artemide Ecate o la baltica Laima Ragana. Si manifesta come la vita, come colei che dà la nascita, piena di poteri vitali, ed è inoltre dea dell'amore. Ma i suoi poteri comprendono anche la morte e la magia, benché non sia una terribile distruttrice. Con un tale vasto campo di funzioni e influenze, è chiaro il motivo per cui Freya restò la più importante divinità nordica. Freya si identificava strettamente anche con la Völva, una donna sapiente, veggente e ministra dei riti di divinazione che erano celebrati da un consesso di nove sagge. La Völva è descritta con indosso un costume di pelle animale, compresi stivali in pelle di vitello e guanti in pelle di gatto, forse in analogia al costume di Freya stessa. La dea pare fosse stata una formidabile sciamana e la progenitrice divina delle donne sapienti, poi demonizzate come streghe. Un'altra dea germanica è la svedese Frigg, la moglie di Odino. Questa dea si inserì nel pantheon patriarcale sposando un importante dio indoeuropeo, ma mantenne alcune caratteristiche simili a quelle di Freya. Di Frigg, infatti, si dice che sia la madre di tutti gli dei, un titolo attribuito alla grande dea madre in molte mitologie. La sua ancella si chiama Fulla, che significa abbondanza. Con i suoi lunghi capelli d'oro distribuisce doni dal forziere di Frigg. Una metafora del grembo della dea, simile al vaso di Pandora della mitologia greca. La Valchiria. La dea della morte compare in altre regioni europee come un rapace sul campo di battaglia, come per esempio l'irlandese Morrigan o Bab, il corvo, o la greca Atena, la civetta. Ma nella mitologia norrena diventa la Valchiria, fanciulla guerriera che riecheggia la dea avvoltoio dell'Europa antica. E il suo nome, Valchiria, significa masticatrice di cadaveri. Nella sua funzione distruttrice porta la grandine che danneggia il raccolto o annienta il bestiame. Ma d'altro canto è collegata al rinnovamento e alla rigenerazione. Nei miti, gruppi di valchirie compaiono come cigni che a volte rigettano le loro fattezze e diventano fanciulle che fanno il bagno in corsi di acqua appartati. Skadi. Altra dea della morte e dell'inverno, Skadi è una creatura mitologica degli antichi norreni, ossia i vichinghi. Il suo nome può essere identificato con il sostantivo norreno antico Skadi, che significa morte. Il suo animale sacro è il lupo, che si ciba dei corpi dei morti. Si muove con racchette da neve e predilige le lande coperte dal ghiaccio e dalla neve. Holla. La tradizione orale germanica conserva delle reminiscenze dell'antica dea della morte e della rigenerazione in molte forme. Nella figura di Hel, Holle, più nota come la signora Holla dalle favole dei fratelli Grimm, e come Holda, Bergta o Perkta. I miti la ritraggono come una creatura da incubo e terrificante, come la greca Ecate. Compare con i suoi cani lupo che dilaniano le carni dei cadaveri. In quanto madre dei morti, scorta i morti verso l'aldilà, nei più profondi recessi delle montagne e delle grotte. Holler è il nome del vecchissimo albero consacrato a Holla, sotto il quale risiedono i morti. Benché però sia una vecchia strega dall'aspetto sgradevole, Holla possiede anche virtù rigeneratrici. È lei che fa sorgere il sole e, sotto forma di rana, recupera la mela rossa, simbolo della vita, dal pozzo in cui cade in autunno. Quando i ghiacci si ritirano in primavera, Holla compare a volte sotto forma di una bella donna nuda che fa il bagno in un fiume o in un lago. Dunque personifica le potenze della vita che si rinnova dopo l'inverno, quando la temuta strega della morte si trasforma in una bella fanciulla primaverile. Le immagini di Freya, Valchiria e Holla testimoniano la continuità della dea antica europea, vivificatrice, messaggera di morte e rigeneratrice. Può essere giovane, bella e forte, oppure vecchia, sgradevole e potente, a rappresentare un ciclo completo dalla nascita alla morte alla rinascita. Così il suo potere si estende sui vivi e sui morti. La religione baltica. Nella civiltà baltica, gli dei indoeuropei non riuscirono a trasformare le dee antico-europee in amanti, mogli e figlie, come successe nelle altre parti dell'antica Europa. Laima, la vivificatrice signora del fato, non compare accanto ad Ievas come una moglie, ma come partner equipollente. Entrambi benedicono i campi nel solstizio d'estate. La madre terra, Gemina, era una potente dea della fertilità, delle piante e degli uomini. Ragana, divenuta poi una strega, era in origine una dea della morte e della rigenerazione. La sua magia, il suo sciamanismo e la sua onniscienza influenzarono l'indoeuropeo Velinas, così come lo scandinavo Odin fu influenzato da Freya. Le dee prendono la loro energia creativa dall'acqua, dalla terra, dalla luna, dalle pietre e dalle piante. Si riuniscono in clan retti da una regina. Alcune dee hanno controparti maschili, di solito fratelli, come è tipico delle strutture sociali matrilineari, e sono di natura duale o tripla, come nel Neolitico. La stessa dea può comparire giovane o vecchia, madre o figlia, o in forma di due sorelle. Può essere elargitrice di vita o messaggera di morte. La dea tripla compare come le tre parche o le tre bianche signore. Le divinità femminili baltiche. Laima. Conosciuta in Lettonia come Laima e in Lituania come Laime, la dea baltica più potente di tutte domina sull'energia vitale del cosmo e sulle potenze creatrici. Laima è il fato, la durata di una vita, la felicità e l'infelicità, la ricchezza e la povertà. Tutto dipende dal suo pronunciamento. Laima rimane sempre se stessa, sia sotto forma di divinità singola, sia sotto forma di dea tripla. I rituali della nascita alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX ancora comprendevano delle offerte a Laima. In Lettonia, il rituale della nascita, al quale partecipavano solo le donne, veniva chiamato Pirtizas, da Pirtis, che vuol dire sauna, dal momento che aveva luogo appunto in una sauna. Il rituale comprendeva un bagno prima del parto e una festa subito dopo. Le credenze baltiche riferiscono dell'antica relazione di Laima con l'orsa. Fino alla metà del XX secolo, una donna incinta o in puerperio veniva chiamata orsa. Le donne riunite nella sauna pronunciavano la formula "L'orsa sta arrivando" al comparire della giovane madre dopo il parto. Nell'area baltica, la dea del parto probabilmente veniva immaginata come un'orsa, proprio come avveniva nell'Europa antica. Laima è identificata con molti alberi sacri, per esempio il tiglio. Questo albero era considerato sacro nei tempi antichi e veniva cinto da un fossato. È affascinante vedere come la vita nasca da ogni creatura vivente, insetto, serpente, gallina o albero, e che tra di esse non ci siano confini. In tutta la creazione c'è il medesimo potere creativo unificante. Oltre ad assumere una forma umana, Laima può essere un'orsa, un albero, una gallina, un menhir o un uccello acquatico. Ha però una più importante incarnazione, il cuculo, associato all'aspetto primaverile di questa dea. Il cuculo pronostica l'ampiezza dell'arco di una vita, la felicità e il matrimonio, e rallegra i cuori in primavera. I contadini si alzano la mattina presto al primo canto del cuculo che porta fortuna a chi lo ode. La vacca Laima. La vacca Laima evoca un senso di profonda antichità. Tra i titoli della dea, si ricordano vacca Laima, vacca madre, madre del latte o pastora di vacche. Possiede la sorgente della vita che è la fonte del latte vaccino. In particolare fa nascere i vitelli, vigila nelle stalle durante il parto, non sotto forma umana, ma sotto forma di una serpe nera o di una gallina nera o anche di un insetto nero. In questo caso il nero è un'accentuazione della fertilità, della nascita e della moltiplicazione. Una quantità di canti mitologici identificano il serpente, la gallina o l'insetto nero nella stalla delle mucche come la vacca Laima o la mucca Laima. Vi era poi Gabbia, la dea dal cuore di fuoco, che rappresenta probabilmente un ulteriore aspetto di Laima. Assomiglia alla dea uccello preistorica. Si credeva che proteggesse la casa e la famiglia, che portasse felicità e fertilità e che stimolasse il bestiame e il raccolto. I baltici immaginavano questa divinità cuore di fuoco come una dea antropomorfa, ma anche come una cicogna o un gallo. La cicogna proteggeva la casa dal fuoco e dai fulmini e salvaguardava il focolare domestico, la famiglia e la comunità del villaggio. La divinità cuore di fuoco veniva nutrita ogni giorno. Quando si preparava il cibo, una porzione di esso veniva gettata nel focolare. Di solito l'offerta al fuoco consisteva in pane e sale. I serpenti e la dea serpente. Fino alla metà del XX secolo, dei serpenti verdi e innocui dividevano l'abitazione con gli uomini. Occupavano il posto d'onore, l'angolo sacro della casa. E oltre alla loro dieta abituale, veniva loro offerto del latte. Il serpente proteggeva la famiglia, o più esattamente era il simbolo della sua forza vitale. Anche le mucche avevano i loro serpenti, che simboleggiavano l'energia e la fertilità delle mucche. Dal momento che il serpente incarnava l'energia vitale, non poteva essere ucciso. Si credeva che chi avesse ucciso un serpente avrebbe distrutto la felicità di tutta la sua famiglia e sarebbe rimasto paralizzato per il resto della sua vita. Se il serpente domestico viveva nella zona dei bambini, si aveva una cura particolare affinché non venisse ferito o ucciso. L'influenza vitale del serpente non si estendeva solo alla fertilità e alle ricchezze, ma anche alla rigenerazione dell'energia vitale. Combinato con piante magiche, il serpente possedeva efficaci poteri per curare e creare la vita. I serpenti andavano in letargo dall'autunno fino a fine gennaio o inizio febbraio. In Lituania, fino a questo secolo, i contadini celebravano un giorno consacrato al serpente, attorno al 25 gennaio, quando i serpenti si risvegliavano simbolicamente e abbandonavano le foreste per tornare alle case. Questo giorno speciale segnava l'inizio di ogni cosa, il risveglio della natura. In questo giorno i contadini scuotevano i meli affinché questi recassero frutta e bussavano agli alveari per svegliare le api. Austeia è la dea ape, citata nel XVI secolo. È sia una donna che un'ape. Promuove la fertilità degli uomini e delle api. Austeia compare come idealizzazione della madre ape, raffigurazione di una responsabile amministratrice domestica. Le famiglie, come vengono di solito chiamate tutte le comunità di Arnie, poste sotto la sua protezione, si moltiplicano. Secondo questo sistema di credenze, l'apicoltura può essere compresa come una metafora della famiglia umana, in cui la madre governante assume il ruolo più autorevole. Dee della morte e della rigenerazione. Giltine è la morte, la sorella di Laima. Avvolta da un bianco sudario, vaga di giorno per i cimiteri in cerca delle bare dei morti. Ragana, una dea della morte e della rigenerazione, può essere notata specialmente di notte con la luna nuova. Benché degradata al rango di strega e confinata nelle profondità delle foreste durante l'era cristiana, mantiene alcune caratteristiche degne di una potentissima divinità. Il nome Ragana deriva dal verbo regeti, che significa pronosticare, divinare o provvedere. La parola lituana ragas, che significa falce, fa pensare alla relazione tra Ragana e la luna, la rigenerazione e la trasformazione. Ragana può diventare un corvo, una gazza, una rondine o una quaglia, ma può prendere anche qualunque altra forma. Assumeva anche l'energia del serpente. Se una ragana moriva, si poteva vedere i suoi capelli torcersi come serpenti, come quelli della Gorgone, e piccoli serpenti strisciarle fuori dalla bocca. Ci sono poi le ragane multiple, poiché Ragana compare come una dea singola, ma molto spesso le leggende menzionano un'intera schiera di ragane che possono prendere la forma di corvi, di solito inconsessi sulla cima delle montagne. In ogni caso, una delle ragane è riconosciuta come signora, la leader del gruppo. Tutte le altre sono sue subalterne nelle gesta notturne, aspettano gli ordini della signora. Dopo essersi spalmati addosso degli unguenti, volano sulle montagne o sui campi, seguendo le direttive della loro comandante. Ragana vigila sulla ciclicità della natura. È lei che mette in equilibrio l'energia vitale, arresta i germogli e ostacola la crescita per paura che le piante e la luna non smettano di crescere. Ragana domina anche sulla sessualità maschile, soggioga gli uomini, spesso stremandoli con una notte orgiastica. Uccide il potere della vita per garantire il rinnovamento ciclico dell'energia vitale. Conosce le erbe magiche e con esse cura i malati, rigenera la vita e resuscita i morti. La principale manifestazione di Ragana nella funzione di morte e rigenerazione è il rospo, ma assume spesso la forma di un pesce, di un serpente, di un porcospino, di una scrofa, di una giumenta, di un cane, gazza, rondine, quaglia, falena o farfalla. Nei primi giorni di primavera, Ragana appare nei pressi di ruscelli o di laghi sotto forma di una bella donna nuda che si spazzola i capelli. E veniamo alla Baba Yaga. Una dea simile è Baba Yaga, nota nel folklore russo come una strega o un'orchessa. Ma si tratta dell'antica dea slava della morte e della rigenerazione, come Ragana. Nei racconti popolari slavi, soprattutto russi, Baba Yaga vive nelle oscurità della notte, al buio dei boschi, lontana dal mondo degli uomini. I racconti popolari la raffigurano di volta in volta come una vecchia e malvagia megera che si nutre di carne umana o come una vecchia saggia dalle virtù profetiche. Il suo aspetto è quello di una donna imponente, con la gamba ossea e con la faccia butterata, con un lungo naso e i capelli scarmigliati. L'uccello è la sua immagine antropomorfica primaria, ma è in grado di trasmutarsi all'istante in rana, in rospo, in tartaruga, in topo, granchio, volpe, ape, giumenta, capra o in un oggetto inanimato. Baba Yaga non parla mai, o vola in un mortaio di fuoco o giace nella sua capanna, in cima al forno, su una panca, sul pavimento oppure distesa tra una capanna e un'altra. La capanna, supportata da zampe d'uccello e in grado di girare sul suo asse come un fuso, è in effetti la stessa Baba Yaga. L'analisi linguistica del nome composto di Baba Yaga rivela delle caratteristiche preistoriche. Yaga, infatti, dal proto-slavo yega, significa malattia, spavento e ira, in russo, in serbo-croato e in sloveno. La forma primitiva deriva probabilmente dal proto-samoideo unga, che significa Dio o Dio dea della morte. L'etimo-slavo baba significa nonna, donna, donna nuvola o pellicano. Quest'ultimo etimo si collega alla natura aviaria di Baba Yaga, paragonabile appunto all'archetipo della dea avvoltoio o della dea civetta della preistoria europea, che personifica la morte e la rigenerazione. Nelle fiabe russe Baba Yaga si nutre di carne umana, beccando come un uccello. Lauma. Lauma in lettone, laume in lituano, è una fata, è un'estensione terrestre di ragana. Sorge dalle distese d'acqua di notte, da sola, in triade o in un gruppo numeroso. È una donna sensuale e attraente, con caratteristiche sovrumane. Spesso è un uccello. Assomiglia a una donna con lunghi capelli e seni penduli, ma ha zampe di uccello e corpo di gallina. Può anche mutarsi in rospo o in giumenta. Il potere della terra. Le funzioni della dea Geminà, la dea della terra, riguardano la fertilità e la moltiplicazione. Lei crea la vita da sé medesima, compiendo il miracolo del rinnovamento. Questo atto concorda con la credenza antica europea, secondo la quale il susseguirsi stagionale di risveglio, crescita, rigoglio e morte fosse un fenomeno interdipendente nei confronti di uomini, animali e piante. Come indicato dalle pratiche rituali, la venerazione di questa dea continuò fino a questo secolo. Le offerte per lei sono della massima importanza. Un errore nella scansione delle oblazioni, pane, birra, animali o uccelli neri, provoca terribili conseguenze. Una pagnotta o un pezzo di pane veniva lasciato su un campo di segale, di grano o di orzo, alla prima aratura di primavera per garantire un anno fertile, oppure alla fine del raccolto per assicurarsi l'abbondanza per l'anno successivo. Al termine del raccolto, i mietitori dovevano trovare il pane e girarci intorno per 3 volte, dopodiché potevano mangiarne un pezzo e seppellire il resto nella terra. La Madre Terra, o Geminà, era venerata sulle cime delle montagne coronate con grandi pietre. La pietra della cima rappresenta l'omphalos, l'ombelico, un punto in cui si concentra il potere della terra. La Madre Terra era venerata in modo simile in molte altre antiche culture europee. Anche in Bretagna diventa una collina sormontata da una pietra, da un omphalos, come illustrano le tombe a corridoio della Bretagna antica. A Creta, nelle isole britanniche e nell'area orientale del Baltico era anche la montagna sacra. Le pietre della Madre Terra non sono colonne erette, simboli maschili, al contrario sono larghe e piatte. In Germania e nelle terre scandinave sono le famose Bautasteine o pietre della sposa, sono pietre piatte con la superficie lucida. Le giovani spose giungevano in pellegrinaggio presso queste pietre e si sedevano oppure si muovevano a carponi sopra di esse per diventare fertili. Le grandi pietre con la superficie piatta scavate nella terra e coperte di paglia venivano in Lituania chiamate deives, cioè dee. È dunque chiaro che la pietra non è altri che la dea stessa. La terra è giustizia, è la coscienza sociale. La Madre Terra presta ascolto ai richiami, risolve i problemi e punisce tutti coloro che la ingannano o le mancano di rispetto. Non tollera i ladri, i bugiardi o le persone vanitose e orgogliose. Nelle leggende e nelle favole, i peccatori vengono divorati dalla terra, insieme con le loro case o castelli. La terra si chiude su di loro e sul posto spunta un lago o una montagna. Per secoli i contadini hanno risolto le loro dispute legali relative alla proprietà dei terreni chiamando in causa la terra. Se un giuramento veniva pronunciato tenendo una zolla di terra sulla testa o inghiottendone una parte, lo si considerava vincolante e incontestabile. Medeina, la dea delle foreste. Alcuni documenti del XV secolo chiamano Diana la guardiana delle foreste, ma in realtà è Medeina. Comparve per la prima volta nelle cronache russe di Ipazio nel XIII secolo d.C. e il suo nome deriva da Medis, albero, o Mede, foresta. Il suo animale sacro era la lepre. Questa astuta e veloce bestiola aiutava la dea a proteggere le sue foreste. La vista di una lepre nelle foreste di Medeina incuteva timore. La signora delle foreste, vestita di seta, vive in un enorme magione assistita da giovani e potenti sacerdotesse.